Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Con il convegno Geothermal Energy, Current Situation and Future Developments, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto il punto, come si può facilmente capire, sulla situazione della geotermia in Italia e sulle prospettive, soprattutto le prospettive che l'applicazione su scala industriale di una serie di tecnologie in parte nuove, in parte in realtà note da tempo ma mai applicate in modo significativo, apre per lo sviluppo di questo settore dell'energia. Settore, quello della geotermia, di cui abbiamo assoluto bisogno, perché rappresenta la geotermia una delle poche fonti rinnovabili programmabili, cioè capaci di produrre energia con continuità in modo prevedibile, cosa che evidentemente non si può dire di sole, vento, maree, correnti marine, eccetera, eccetera. Bene, di quello che è venuto fuori dal convegno parliamo con Francesco Terlizzese, che è direttore della direzione generale che all'interno del MISE si occupa appunto di risorse minerarie, tra cui rientrano anche i fluidi geotermici. Buonasera, buonasera Terlizzese. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Senta, allora, nel corso del convegno sono stati presentati anche diversi progetti pilota, alcuni già in corso, altri che partiranno a breve, e mi pare che uno dei temi importanti un po' di tutte le sperimentazioni sia la cosiddetta reiniezione dei fluidi geotermici, cioè appunto quelle acque calde, di solito anche ricche di vari tipi di gas, che vengono estratte dal terreno e da cui si ricava l'energia. Quindi devono essere reiniettate, perché? Le emissioni dovute alla geotermia sono state dall'inizio uno dei problemi principali da risolvere e progressivamente si è cercato di ridurle, abbatterle, e addirittura con i progetti sperimentali che abbiamo in corso di valutazione di eliminarle del tutto. Completamente. Per fare questo bisogna prelevarle all'uscita dopo aver sfruttato il calore associato e rimandare all'interno del giacimento tutto, sia i gas associati che le acque. Nel fare questo si interviene sul sistema naturale sotterraneo creando una turbativa del sistema. Infatti, parallelamente allo sviluppo di nuove tecnologie per non avere più le emissioni in atmosfera, stiamo sviluppando con i principali enti di ricerca e università italiane le tecnologie necessarie per monitorare gli effetti delle reiniezioni nel sottosuolo, principalmente da un punto di vista della sismicità naturale e della eventuale sismicità indotta da queste operazioni. Si tratta di mettere in esercizio, molto prima che inizi l'attività, delle reti di monitoraggio che permettano a noi, alle regioni, ai cittadini di avere sott'occhio, insieme alle aziende, la situazione di sottosuolo e intervenire tempestivamente se questa si presenta diversa da quella ipotizzata, con effetti sulle faglie esistenti. Senta, un altro filone che è evidente, insomma, emerge con forza è il tentativo di sfruttare delle risorse geotermiche a temperature, diciamo così, medie, non proprio basse, ma senz'altro più basse di qualche anno fa. Sì, lo sfruttamento delle temperature alte, diciamo in gergo tecnico di alta entalpia, avviene in alcune zone molto circoscritte. Dove si trovano sostanzialmente della zona di Larberello, le zone del Monte Amiata e poche altre. Cioè vuol dire che sottoterra si trovano dei serbatoi di fluidi ad altissima temperatura, ci vogliono delle condizioni geologiche molto particolari perché questi fluidi siano geologiche particolari, con dei magmi abbastanza vicini alle zone in cui ci sono queste acque con vapore surriscaldato. Ma qualcosa anche che lo tiene lì, questo vapore non lo fa sfuggire, insomma sono con delle coperture adatte, esatto. Quindi sono diciamo dei bacini molto rari, che sono già in gran parte in sfruttamento. I circa 760 megawatt elettrici che produciamo in Italia vengono tutti da questo tipo di giacimenti, ma l'Italia è ricca di potenziale geotermico. E proprio in queste ultime settimane, su iniziativa del Parlamento, noi abbiamo pubblicato la zonazione geotermica, cioè la mappatura del potenziale geotermico italiano, in cui si vede che ci sono moltissime zone d'Italia che presentano delle caratteristiche idonee per temperature cosiddette di media entalpia, 100-150 gradi, che possono essere sfruttate sia per usi elettrici che per usi termici e soprattutto per usi combinati. Certo, ecco, quindi insomma queste nuove tecnologie cambiano la mappa del potenziale geotermico italiano. Quanto? Già già dalla strategia energetica nazionale del 2013 noi avevamo un potenziale della geotermia che poteva raddoppiare dal 10% che allora rappresentava la geotermia nel panorama rinnovabile al 20%. Ora sono proprio allo studio queste mappature che, come ripeto, sono state appena pubblicate e che vanno oltre questo. Quindi ben oltre un raddoppio, insomma. Dal 2020 al 2030 può certamente andare oltre il raddoppio. Va bene, grazie per intanto Francesco Terlizzese, ma ci risentiamo domani perché ci sono altre cose, insomma, da raccontare sulla geotermia d'avanguardia. Benissimo, a presto allora. Arrivederci.